colto, single, esperto di internet. Bello, bello impossibile. Tra i 33 e i 45 anni. Con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Libero professionista e amante del jazz. Bello, bello invincibile. Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. È questo il ritratto del volontario romano che si evince dai dati raccolti del registro di solidarietà comunale. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, forte, forte, ti vorrei. Punto 30, il radiogiornale della capitale.